fucking Rayman, motherfucker. Purple rain on me, and my enemy goes jealous. For my in, for my chic. Per me sei solo un'altra merda che si approfitta di persone sole. Ricorderò il tuo nome quando sentirò la solitudine, quando il mio nome splenderà lì lo stesso, quando di te farò indigestione. Tanto mangio merda da 30 anni e quelle come te sono le più indigeste. Ti rimane dentro il loro limite a percuotere le volte che lo superi. Ladri di tempo, figli di puttana, ladri di vita anche quando perdono, si attaccano sotto una sottana, raccontano storie per me indigeste. È arrivato il tempo per noi di alzare le teste, solo altre merde davanti al bel volto di noi artisti. Solitudine nostre contraffatte dal loro falso asso, dal loro ciarlare. Ma ogni volta che sentirai questa canzone, ricorda che l'ingenuità non si deruba alle persone, dai tuoi falsi idoli, gambe corte, che continuano a camminare solo con una bugia, solo con una finzione. Use your fucking mind to fight me, not words. Ma la vita quando ti porterà il conto, non lo farà solo col mezzo pieno, lo farà col sapore di ogni tuo torto, lo sceno del tuo discorso, davanti a oneste persone, davanti a oneste persone. Ricordati il mio nome che splenderà sotto il sole, ricordati il mio nome che splenderà sotto il sole, sotto il sole. If you wanna fight me, use a mic me, use a mic me. Per me sei solo un'altra merda che si approfitta di persone sole. Ricorderò il tuo nome quando sentirò la solitudine, quando il mio nome splenderà lì lo stesso, quando di te farò indigestione. Tanto mangio merda da 30 anni e quelle come te sono le più indigeste. Ti rimane dentro il loro limite a percuotere le volte che lo superi. Ladri di tempo, figli di puttana, ladri di vita.